Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E benvenuti a tutti, eccoci ritrovate a Cuore e Denari, ma soprattutto eccoci ritrovate anche quest'anno ospiti di Forum Agenti Milano, Nicoletta. Sì, un salone interessante. Non si può certo dire che non ci siano mancati fotografi stamattina. Mamma mia, con sti capelli crespi. Abbiate pietà, che piove fuori e noi donne ci vanno in tilt i capelli. Adesso queste foto, noi vi ringraziamo tanto, ringraziamo anche poi il padrone di casa che ci vuole fare il corredo fotografico. Ecco, però ritoccatele e taroccate. Esatto, fateci la piega fotografica per piacere. Allora, il Forum Agenti Milano, un salone che ci dà modo di parlare di una realtà professionale molto vivace che sta vivendo anche molti cambiamenti, che si evolve in relazione alle novità che continuano a riguardare il mercato del lavoro e anche e soprattutto lo scenario economico ancora un po' complesso, un po' difficile anche per questa categoria. Parliamo degli agenti di commercio. Nonostante tutte le difficoltà di questi anni, pensate che l'Italia si conferma il primo paese europeo per numero di agenti di commercio. Questa è la prima notizia che vogliamo condividere con voi. Se volete condividere invece questa diretta con noi, potete raggiungerci, fate ancora in tempo, presso la Fiera Milano Congressi, MICO Padiglione 4. E purtroppo in questa fiera, Nicoletta, stamattina non si può fare shopping, ne avremmo approfittato volentieri, visto che è il Black Friday. Sì, però c'è ancora tempo, Deborah, perché la puntata finisce a mezzogiorno e quindi io pensato che tu potresti farmi qualche regalino, dato che si avvicina il mio onomastico. Vado a vedere se c'è qualche stand con qualche business interessante, qualche detergente, magari qualche cosa lo vedo da qua, dopo quindi, ti dico. Guarda, il tempo si trova. Va bene. Allora, tornando ai nostri agenti di commercio, intanto io invito chi ci ascolta non da questo live, ma per chi ci ascolta da casa, potete chiamarci all'800 24 00 24, anche se siamo in trasferta, noi raccogliamo sempre volentieri le vostre telefonate. Potete iniziare a raccontarci quali sono gli aspetti della professione che secondo voi meritano di avere uno spazio, essere portati all'attenzione. Oggi ci concentriamo sull'opportunità che la figura dell'agente di commercio costituisce nell'ottica dello sviluppo di un'azienda, anche di uno sviluppo sul fronte dell'internazionalizzazione dell'attività aziendale, quindi espansione oltre confine. Quindi potete farlo, come vi dicevo, al numero verde, ci potete anche scrivere al 349-238-6666 per parlare di tutti questi argomenti. Noi oggi abbiamo, come vi dicevo, il padrone di casa, il patron di Forum Agenti, Davide Ricci, che salutiamo. Davide, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato, se gli facciamo partire il microfono c'è utile. Ce la facciamo dalla regia. Presidente e CEO. Wow. Perché wow, internazionalizzati CEO. Come siete, adesso devo dire CEO di agenti.it e di Agenti 321, che è l'associazione che organizza questa manifestazione. Sì. Allora, biglietto ciao, da visita è completo? Assolutamente sì. Dico ciao perché non essendoci il microfono magari gli ascoltatori non l'hanno sentito. Quindi ciao e benvenute nuovamente. Grazie. Voi siete state fin dalla prima edizione di Forum e avervi qui è una gioia. Siamo delle madrine ricorrenti. Ci sta dicendo che siamo un po' delle regine. Regina e reginetta. Assolutamente, potreste essere le regine anche di tutti gli agenti di commercio, perché no? Proviamo, dai, per la prossima edizione qualche sorpresa scintillante. E noi iniziamo ad occuparci anche della salute e del benessere degli agenti, che così lavorano bene, ci invitano nuovamente e noi verremo di nuovo a trovarli. Cade, come era capitato l'anno scorso, puntuale l'appuntamento con Salute Uomo. Ci occuperemo naturalmente della salute degli agenti e la decliniamo al maschile, anche se c'è una buona componente femminile, vero Davide? Tra gli agenti, le sta donne, aumentando. Allora, sì, è in crescita, anche se in realtà è comunque un mestiere dove ci sono molti più uomini. Che donne, ma su 220.000 agenti di commercio circa il 12%, quindi circa 25.000 sono donne. Allora, noi in realtà ci occuperemo in particolare degli uomini, degli agenti, e quindi raccoglieremo anche le loro testimonianze, i loro problemi, vogliamo metterle a disposizione i consigli di Andrea Salogna, naturalmente anche di chi ha un profilo che si avvicina a quello dell'agente e quindi è quello di una persona che percorre tante ore in macchina, macina chilometri, ma anche deve affrontare quotidianamente delle sfide, ha in testa mille cose, deve con un occhio tenere sotto controllo la strada, ma al tempo stesso ha la mente preoccupata e occupata nel contratto da rinnovare, da firmare. Allora, se volete intervenire, se avete bisogno dei consigli per tutto quello che attiene all'universo salute e benessere per continuare a stare bene, 800 24 00 24. Naturalmente possono farci delle domande anche gli agenti di commercio che sono qua in studio, perché dobbiamo raccontare anche ai nostri ascoltatori, così descriviamo un po' la platea che ci ospita. Esatto, ci sono delle sedie davanti a noi dove appunto ci stanno seguendo dei professionisti, per cui magari faremo circolare anche il microfono tra di loro. Un vero live, Davide, che ne dici? Poi tu venendo dallo spettacolo, esatto, sì, insomma, sì, ti piace questo approccio? Tantissimo. No, molto. Tra l'altro, adesso, prima di partire adesso con il primo approfondimento, poi voglio anche segnalare che c'è uno spettacolare Museo della Vendita. Dopo raccontiamo i dettagli di che reperti storici siete andati a caccia, Davide. Volentieri. Perché questo è stato un altro lavoro. Partiamo. 3x5, 25, 6x3, 33, 2x8, 48, 3x9, 29. Allora, abbiamo fatto un calcolo veloce con Giovanotti, partiamo da qualche numero, dall'ultimo rapporto di Agent 321, l'associazione appunto che organizza Forum Agenti. Emerge che nel panorama degli agenti di commercio europei la parte da leone la fa l'Italia. Già una cifra, Davide Ricci ce l'ha data poco fa, 220.000 agenti, il 31% del totale europeo. A seguire abbiamo la Spagna con il 20%, la Germania con 42.000 agenti che valgono il 6% del totale, in quarta posizione la Francia e via andando. Anche per questa ragione numerica, Davide, l'Italia è il paese che ospita l'unica fiera al mondo interamente dedicata ai colloqui. Questa è la manifestazione che si occupa di colloqui, di ricerca, agenti di commercio, rappresentanti e venditori. Vi conoscono tutti molto bene perché i vostri passaggi pubblicitari in radio, in quanto a creatività, sì, devo dire, ci odiano anche un po'. L'importante è che si parli di voi. Com'è, sì, che si dice sempre? Anzi, a volte è anche meglio che si parli male, ecco, piuttosto che bene, perché bene non è proprio... Esatto. Sì. Biglietto da visita di Forum Agenti 2016. Vai. Sì, allora, quindi hai spiegato molto bene. Aziende che cercano agenti e agenti che cercano aziende. Due volte l'anno facciamo questi incontri, siamo itineranti. Milano è tappa fissa, anche perché, insomma, ci siete voi, Milano, e quindi come facciamo? Non è? Allora, diciamo che perché è così interessante? Perché in realtà gli agenti di commercio movimentano il 70% del PIL italiano. Quindi l'Italia, la struttura organizzativa... Uno dice, esatto, 70%. Ecco, esatto, sì, uno viene a questa manifestazione così pensando di fare una passeggiata... Esatto, esatto. Ecco. In realtà non so, per esempio, i vostri abiti sono stati intermediati da un agente di commercio. Certo. Le cuffie che indossiamo le avrà vendute qualche agente di commercio. Le scarpe, i computer che abbiamo qui davanti, le agendine, l'acqua. Se ci pensiamo, tutto quello che ci circonda in realtà ha generato delle provvigioni, certo, perché poi gli agenti di commercio vengono pagati a provvigioni, certo, ha generato anche degli utili per le aziende che hanno, certo, prodotto, naturalmente. Però tutto questo volume in Italia viene movimentato al 70% dagli agenti di commercio rispetto agli altri canali che ci sono. Mm-hmm. Quindi questo è importantissimo. E infatti, allora, al centro di questa edizione, questa è la novità che vogliamo spingere un po' quest'anno, c'è la dimensione internazionale, soprattutto europea, della professione. Allora, chiaramente non è che l'agente di commercio può delocalizzarsi, ma sicuramente può in Italia rappresentare magari aziende che operano in altre economie appunto europee e non solo. Che cosa significa per voi essere internazionalizzati? Sì, allora, in realtà, per esempio, qui a Forum Agenti ci sono molte aziende estere che vogliono vendere in Italia. L'internazionalizzazione è una parola che poi in realtà non rispecchia proprio quello che fa l'agente di commercio, però cerco di spiegarmi con un esempio. Cioè, se un'azienda francese piuttosto che spagnola vuole venire in Italia a vendere i propri prodotti, ha diverse scelte per farlo. Può banalmente aprire una filiale, ma per fare questo tecnicamente cosa deve fare? Deve innanzitutto dovrebbe privarsi di uno dei suoi migliori uomini, a meno che non decida di far aprire la filiale da magari, non so, un neolaureato o qualcuno che non ha esperienza. Quindi se io devo approcciare un paese con una filiale, presumo che o io che sono il titolare / amministratore delegato me ne occupo personalmente, o devo privarmi di qualcuno che conosca la mia realtà, magari in Spagna se sono un'azienda spagnola. Diversamente qualcuno cerca di dire sì, però allora facciamo così, prendiamo un cliente importante, no? Noi produciamo, siamo leader in Spagna, troviamo un bel cliente importante in Italia e bypassiamo tutto, non apriamo filiale e quant'altro. Un unico cliente è naturalmente un rischio. Qual è il rischio? Il rischio che se perché domani... Perché anche qua bisogna diversificare, anche con i clienti. Esattamente, perché basta, certo, che quel giorno il cliente si sveglia e dice non compro più, tu perdi un mercato, perdi un paese. Quindi avevi magari comprato dei macchinari, ho fatto un leasing per dei macchinari in Spagna per produrre di più perché quel cliente ti stava vendendo molto, dopodiché lui arriva e sei costretto a fargli magari un prezzo più basso semplicemente perché devi pagare delle rate del leasing, ad esempio. L'altra cosa è dire vabbè, allora prendiamo un distributore nazionale che poi venda in più prodotti, in più posti in quel paese, in Italia nello specifico. Cosa succede? Un distributore ha il controllo della situazione, cioè nel momento stesso in cui un'azienda non ha il controllo di dove vada il prodotto finale, è un po' un problema perché funziona come se fosse un cliente molto molto grande. Quindi la domanda che noi di solito facciamo quando facciamo questi incontri internazionali per spiegare alle aziende un po' come funziona è: lei in Spagna, piuttosto, lo stesso vale per l'azienda italiana, certo, in Spagna, no? Dico, lei affiderebbe tutto il suo mercato spagnolo ad un unico distributore? No. E perché lo vuole fare in Italia? Se non lo fa in casa, perché vuole fare in altro paese? L'unica figura che si presta a questa cosa è l'agente di commercio, che in realtà non è un costo fisso. Cioè gli agenti di commercio proprio di per sé percepiscono provvigioni esclusivamente se vendono. Conoscono il mercato in quel paese. Faccio un esempio, un'azienda spagnola che vende, non so, acqua minerale piuttosto che carta, piuttosto che qualsiasi tipo di cosa, anche se acqua minerale ha problemi logistici molto particolari, no, sì, va bene. È il primo esempio. Però che cosa, ci è venuto in mente. Sì, cosa succede? Vuole, non conosce il mercato italiano, l'agente di commercio magari tratta un prodotto simile lì e lo può aiutare, quindi non deve per forza spendere soldi in ricerche di mercato che, se fatte bene, sono molto, certo, costose. Quindi è un professionista al quale affidarsi. È chiaro che non è che può rimanere seduto sulla scrivania, all'inizio dovrà andare con lui, lo dovrà aiutare, e poi magari si trova non uno ma 10 distributori, 15 distributori, e nel momento in cui non dovesse più andare d'accordo con un agente di commercio, che può capitare, lui però ha sul territorio n punti dove ha consegnato, si è già agganciato, se il suo prodotto effettivamente è valido, sul quale si vuole, certo, espandere. Quindi questa è la declinazione dell'internazionalizzazione dell'agente di commercio, secondo quanto viene spiegato a questa edizione di Forum Agenti. Intanto vedo Marco che sbraccia, mi pare che sia tempo di andare a sentire il traffico, e magari c'è anche qualche agente di commercio che sta guidando in questo momento, quindi oltre a quello che raccontiamo noi è interessato anche a sentire cosa succede sulle strade italiane. A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Cuore e Denari. Proprio around the world, Davide Ricci, no, gli italiani però in Europa stanno un po' espandendo la propria attività, la propria area di interesse. Stiamo parlando degli agenti di commercio sempre più internazionali, ne stiamo parlando in diretta da Forum Agenti Milano, e con noi c'è sempre Davide Ricci, no? Nicoletta, eccolo, CEO qua di agenti.it e Agent321, ma più correttamente gli ascoltatori ancora vogliono che si parli in italiano, diciamo amministratore delegato di questa realtà, sì, che organizza questa manifestazione. E naturalmente microfoni aperti anche agli ascoltatori che vogliono interagire con noi all'800 24 00 24. Ma mi stavo chiedendo, Davide, in tutte le aziende che si sono proposte appunto per questa edizione di questa manifestazione, quante ti hanno chiesto appunto di venire dall'estero per cercare agenti che li rappresentasse sul tessuto economico italiano? Allora, in realtà delle cifre sono interessanti? Sì, ci sono assolutamente le cifre. Abbiamo Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, e Regno Unito. E che settori Romania cercano di espandersi in Italia? Allora, diciamo un po' con tutti i settori, un po' con le loro eccellenze. Per esempio, faccio un esempio, in Polonia sono fortissimi sugli infissi, per dire, sono dei grandissimi produttori di infissi. Cioè, ogni paese ha un po' la sua specificità, e quindi ritiene di essere competitivo per il mercato italiano, e quindi tecnicamente si fa avanti tramite gli agenti commerciali, per quello che abbiamo detto prima, cioè non apre una filiale, perché sarebbe comunque spendere senza avere la certezza di, ma magari trovando un buon agente di commercio in Italia che lo aiuta a sviluppare, può iniziare a pensare magari fra un po' di passare ad un discorso filiale, perché la filiale non è una cosa sbagliata, anzi ci sono delle filiali che funzionano benissimo, di aziende, filiali molto grandi anche di aziende estere, però è un passaggio successivo, cioè deve esserci un mercato e un fatturato che giustifica, anche perché esatto, poi che si nella consolida certo, e nella filiale poi ci lavorano gli agenti di commercio in realtà, okay, quindi che pure devono avere ovviamente un appoggio, magari un riferimento anche fisico, certo, no, per certo, immaginiamo che un'azienda, finché è medio piccola, ha bisogno di un agente di commercio per entrare, diciamo, in un altro paese. Se è un'azienda grande, in realtà non è sufficiente, perché poi dopo gestire tutto da solo non è facile, insomma. Quindi certo. Senti, ma questa dimensione internazionale, che tipo di sforzi di aggiornamento e formazione richiede agli agenti di commercio? Vabbè, parlare le lingue oggi è diventato un requisito abbastanza fondamentale per fare qualunque tipo di lavoro, e qua lo dice una che purtroppo mastica con difficoltà già l'inglese, quindi figuriamoci tutto il resto. Però insomma, per gli agenti c'è anche Questa richiesta, naturalmente, stare sul mercato internazionale significa essere pronti ad affrontarlo in tutte le sue necessità. Sì, allora bisogna distinguere intanto se è un agente italiano che vende all'estero, perché ce ne sono, non sono pochissimi, sono circa, adesso sto andando, c'è un numero esatto e non ricordo, ma intorno ai 10.000, quindi agenti di commercio italiani che in realtà rappresentano aziende italiane per vendere in Spagna, in Francia, in Germania. E questo, dico questo dato per capire proprio che la grossa problematica è la lingua, cioè parlare in inglese semplicemente al ristorante è già difficile, quindi farsi capire, io le prime volte che andavo in un posto indicavo il piatto che mi piaceva e dicevo voglio quello lì al cameriere, insomma, per farmi capire, perché magari non ero in grado di capire sul menù quale fosse, quindi figuriamoci quando dobbiamo parlare poi di denaro, di merci, di soldi, di intermediazione, contratti, per forza, quindi cosa succede? Molto spesso si trovano delle situazioni per cui magari ci sono le persone che sono bilingue, quindi io ho magari un agente di commercio italiano che ha sposato una signora francese e quindi ha la possibilità di parlare in francese quotidianamente, che quindi magari aiuta. È sempre la stessa cosa, perché il modo migliore per imparare una lingua è farsi un fidanzato o una fidanzata di quel paese lì. Anche tu, anche più di una, vuole, ma questo non è perché se si vogliono imparare più lingue poi bisogna farne due o tre fidanzate. Prima del matrimonio. Non forziamo i concetti secondo come volete voi, perché non è proprio così. Però, ok, va bene, perfetto. Quindi, però ci sono magari, c'è gran parte dell'Africa che parla per esempio il francese, c'è la Tunisia. Che oggi qui a Forum abbiamo visto ieri in realtà un incontro tra delle aziende belghe e delle aziende tunisine che si sono incontrati qui nella nostra area VIP e hanno fatto business addirittura tra di loro in francese. Esattamente. Cos'è che le ha aiutate? La lingua, signori. Se non si riesce a comunicare, già facciamo fatica a comunicare a capirci tra di in noi italiano, con la stessa lingua. Quindi figuriamoci quando devo spiegare ad un agente quali sono le caratteristiche magari principali e importanti del mio prodotto e quando poi lui magari mi deve spiegare che magari qualcosa non va, che qui in Italia non funziona proprio come in Francia, che il panettone lo mangiano tutto l'anno. Quindi se un'azienda francese vuol vendere il panettone tutto l'anno non può farlo. Ecco, insomma, Tanti aspetti interessanti. Sì, dunque Marco mi sta dicendo che stiamo chiudendo questo blocco. Io vedo le 10.54, credo che chiudiamo a 55.30. Ditemi se sto sbagliando. Adesso magari controlliamo ulteriormente un altro orologio. Beh, in diretta ci capitano anche queste cose qua. No, direi che possiamo fare anche già la pausa. Va bene. Nicoletta, che dici? Andiamo e poi torniamo qui. E arriva anche Andrea Salonia. Lo stiamo aspettando. Pronti anche con le vostre domande, se volete da studio, ma se volete anche da fuori all'800 24 00 24. Giornale Radio, a tra pochissimo. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Guarda, io veramente, qua c'è uno dei re della creatività che è Gianluca Nicoletti, però a lui sembra di fare delle cose divertenti, ma in quanto a qualità degli stacchetti musicali che scelgono i nostri due Marco Lombardo e Laura Vanossi, direi che non ci supera nessuno. No. Cioè, qua abbiamo naturalmente anche noi usato la colonna sonora di James Bond, il nostro agente, ma oggi parliamo non di 007 ma di agenti di commercio. Sono i protagonisti della prima parte di Cuore e Denari, di tutta la trasmissione, con varie declinazioni, appunto stiamo parlando della loro professione. Ricordiamo che siamo in diretta da Forum Agenti Milano presso la Fiera Milano Congressi, MICO, padiglione 4. Davide Ricci insieme a noi, presidente e amministratore delegato di agenti.it e Agent321, che è proprio l'organizzazione che si fa carico di tutta l'organizzazione di questa manifestazione. Abbiamo parlato dell'agente di commercio ormai come figura sempre più internazionale. Intanto che si microfona, fra un po' salutiamo anche l'ospite. Perché io intanto perché l'ho baciato, penso che sia arrivato un... Ah sì, non avevo fatto caso, e per chi non se ne fosse accorto adesso l'abbiamo anche raccontato. Ecco. Allora, Davide Ricci, ancora un paio di curiosità legate alla vostra attività. Io vorrei, siccome il tema del lavoro sta molto a cuore a me, Nicoletta, Cuore Denari, ne parliamo in ogni modo, tra l'altro segnalo che ne parliamo anche, sì esatto, come al solito siamo vestiti tutti nello stesso colore, io, Nicoletta e Andrea Salonia, quindi raccontiamo pure questa. No, vorrei farvi notare la cravatta di Davide Ricci. Uguale. No, non ci siamo messi d'accordo, abbiate pazienza, siamo tutti su questo color vendemmia, possiamo definirlo così, sì. Nicoletta, ti piace? Nelle varie tonalità. Esatto. Esatto, adesso facciamo una foto per dimostrarvelo del tutto involontariamente. La puntata non la tengo più sotto controllo, adesso rimetto ordine appunto alla nostra diretta. Davide, prima di parlare del colloquio di lavoro, perché a questa manifestazione si presentano anche tanti giovani che sono a caccia di opportunità professionali, prima di parlare di questo, con grande serietà, andiamo su curiosità un po' più leggere. Allora, qua accanto a noi c'è il Museo della Vendita. Sì, no, ma te mostra devo... Museo della Vendita, certo. Voglio che tu ce lo racconti e che lo visualizzi per gli ascoltatori che ci seguono in radio, perché poi arriveremo al tema delle agende, adesso sentite che volo pindarico che stiamo facendo, e poi raccontiamo anche quella che regalate quest'anno, che informazioni ci sono utili per gli agenti che si vogliono internazionalizzare. Senti che viaggio che ho fatto, fantascienza proprio. Davide, ti lascio il microfono. Allora, proprio, e mi aggancio alla fantascienza, perché l'abbiamo pensato così. Hai visto, perché tu l'hai visitato, abbiamo, sì, fatto un tunnel tutto quanto, sì, nero, con delle luci che in realtà dovrebbe dare la sensazione di un, diciamo, di un viaggio nel tempo, per cui vieni proiettata nell'esperienza quasi mistica, poi ti ci porto, esatto, Nicoletta. Nel 1950, quindi abbiamo trovato tutta una serie di cose, per esempio, in primis i cellulari, quindi abbiamo messo lì tutti i primi cellulari che sono usciti dal primo cellulare in assoluto. E poi siamo andati le cabine telefoniche, esatto, no? Che sembrava ce n'è quasi una cabina telefonica. Abbiamo portato appunto una macchina, una Fiat 1100, sempre degli anni 50, molto molto molto carina, per far capire anche che la storia è importante nel lavoro e nei mestieri, quindi questo è quello che ci ha mosso. Però poi dopo abbiamo tappezzato tutte queste pareti nere, quindi si entra in questo posto, di tutti quelli che sono appunto i notiziari che sono stati fatti negli, sì, anni. E poi abbiamo fatto l'evoluzione poi dell'agenda, cioè come si gestivano gli appuntamenti, no? Perché l'appuntamento è una parte molto importante della professione dell'agente di commercio, di come venivano gestiti dalle prime agende cartacee, e quindi abbiamo visto delle vecchissime agende cartacee, fino a poi all'evoluzione di quelli che sono i data bank che si sono fatti, che poi oggi in realtà si sono estinti, perché ormai poi dopo, nel momento in cui dal lancio di questi smartphone che fanno anche da data bank, in realtà è un oggetto che non ha più nessun tipo di utilità, perché nessuno vorrebbe avere un telefono per telefonare e un data bank per prendere l'appuntamento. Certo. Non smantellatela, mi raccomando, fatela diventare permanente questa piccola mostra, perché è veramente interessante. Sono andati a caccia di questi reperti tecnologici, se vogliamo, addirittura comprandoli su eBay, mi ha raccontato tante cose interessanti, Davide. Perché vogliamo arrivare all'agenda cartacea che invece regalate oggi? Perché nel tema di internazionalizzazione abbiamo fatto un'agenda, in realtà si chiama agenda. L'agenda, tu sai, agenda. Che noi siamo creativi non solo negli spot, no, vabbè. Si chiama agenda, ok, quindi sarebbe agenda, l'agenda degli agenti di commercio, che è la moglie dell'agente, cioè. Esatto, quindi abbiamo fatto agenda, che abbiamo cercato di realizzare un prodotto gratuito per tutti gli agenti di commercio che vengono qui a Forum, e anche non chi la vuole richiedere la può richiedere, gliela mandiamo, dove ci sono all'interno tutta una serie di cose utili, quindi due o tre tipi di calendari, perché ci sono persone che gestiscono l'agenda giornaliera e altri certo. mensile. Quindi c'è come ottimizzare gli appuntamenti e la quotidianità. Esattamente, ci sono dentro tutti gli importi, le aliquote, i contributi previdenziali Nasarco, come funzionano per gli agenti blu. Non dire quella parola lì, che lo sai che mi scateni 200.000 telefonate, quindi però dobbiamo ripromettere, lo stiamo facendo tutti gli anni, ma una puntata sulla questione Nasarco per gli agenti di commercio, promettiamo che la facciamo, visto che adesso Davide è anche nel consiglio di amministrazione dell'ente previdenziale volentieri, di categoria, volentieri. Quindi torniamo anche seri ogni tanto, ma manteniamo la nostra leggerezza di fondo. Davide. Abbiamo tutto il trattamento fiscale delle spese degli agenti, quindi capire come possono essere scaricate tutte le cose, e poi abbiamo una serie di strumenti, di report, la possibilità... La cosa è lo spelling internazionale, volevo arrivare allo spelling internazionale. Vai, dai. Cioè, con l'internazionalizzazione, quando qualcuno dice il suo nome, soprattutto se lo dice all'estero, non è proprio una roba semplice. Allora, per esempio, dicevamo prima, per dire Nicoletta... O Andrea Salonia, così lo salutiamo e facciamo già sentire la sua voce. Facciamo lo spelling con Andrea. Ecco, intanto bentornato. Grazie mille. Eccolo grazie, qui. Per il secondo anno consecutivo. Esatto, è ormai una tradizione. Non c'è due senza tre, esatto. L'anno prossimo fate in modo che sia l'ultimo venerdì del mese, Davide, questa va manifestazione bene. Così. Perché noi ci siamo sempre l'ultimo venerdì del mese, ci occupiamo di maschietti. Allora, se fosse da fare lo spelling italiano, Andrea sarebbe Ancona, Napoli, Domodossola. Domodossola, Roma, Empoli, Ancona. Se invece esatto. dovessimo fare lo spelling americano di Andrea sarebbe? Allora, se rimaniamo addirittura sul sarebbe Able, sì. Ok, per la A. La N abbiamo Nam, N di Nam, vedi? Poi abbiamo And, perché poi dopo io so fare il mio, magari prima, la D è Dog, per dire. Per esempio, in americani dicono Dog. Uh-huh. Mentre invece gli inglesi quando devono dire a this dicono David. Quindi per esempio Andrea dovrebbe dire Abel se è in America, Andrew se è in Inghilterra e Albert se è in Francia, sì, perché poi dopo va declinato. Sì, ma è più facile con le città, ma dico perché si devono complicare la vita? È perché hanno delle città diverse probabilmente. Vabbè. Pensa se non se dovessimo imparare tutti i nomi di tutte le città americane. Però insomma, piuttosto che, insomma, è divertente. Allora, prima di passare la palla alla parte di cuore, le ultime... Proprio palla mi passerai, è il caso di dire. E con questa? No, palla nel senso di pallone. C'è una deriva piuttosto preoccupante. Ragazzi, però voi avete... Cioè, no? No, ma guarda, Davide, ma dimmi se mi devo accompagnare con questi due. Che non lo so, brutti, è comunque una scelta, credo. Perché il quarto che si è messo insieme, invece, se solo poteste per la tangente. A vedere i colori come siete vestiti, sì, in realtà. Sì, siamo un magnifico trio. Esatto, guarda, abbiamo un feeling... Dacci le due regole di base per sostenere un colloquio di lavoro con una delle aziende che qui sono a caccia appunto di agenti di commercio. Qual è il biglietto da visita con cui bisogna presentarsi, soprattutto se ancora non si ha esperienza adeguata, Davide? Allora, hai detto la parola biglietto da visita. In realtà sono tre le fasi importanti per fare un buon colloquio di lavoro. Intanto il biglietto da visita cartaceo è sempre utile. No, ma tu non scherzare, cioè molto spesso succede che non le hanno. Però sono tre fasi, sono quello da fare prima di venire, quello da fare al primo impatto con l'azienda quando ci si presenta e quello da fare durante il colloquio. Molto rapidamente, prima preparare dei biglietti da visita, in realtà anche se, la prevenzione. Anche se non si è agenti di commercio, perché dobbiamo lasciare in realtà il numero di telefono, un'azienda potrebbe scriverlo male, piuttosto che ci sono le macchinette, quelle che fanno anche i biglietti da visita con 5 euro, uno se li prepara, è chiaro, se non si è agenti non si può scrivere agenti di commercio, però si dà un biglietto da visita e quello è lo scambio dei santini, è un rito, diciamo, della prima presentazione. Esattamente, esatto. Dopodiché portarsi un curriculum, che a volte può servire, molto di più le aziende stanno chiedendo curriculum, anche se in realtà il vero agente di commercio fa un po' fatica a fare il curriculum, dice io so vendere, perché dovrei fare il curriculum? Ecco, qui c'è addirittura un formatore che spiega come fare un curriculum per gli agenti di commercio, abbiamo diversi seminari qui al forum ed è una cosa proprio molto molto molto interessante, come fare un curriculum non per quello che le persone si aspettano, ma quello che si è, per quelle che sono le proprie attitudini, e quello è importantissimo. Dopodiché, una volta che si è preparati al primo impatto, va bene, stretta di mano, da che mondo è mondo è la cosa importante, guardare negli occhi, vestirsi anche prima in modo adeguato, non è bisogna essere per forza in giacca e cravatta, però immaginate che quell'azienda con la quale state parlando vi sta dando in mano i suoi prodotti, i suoi figli, quelle cose che ha prodotto con tanto amore e vorrebbe che chi le va a proporre ai clienti metta lo stesso amore. E comunque a volte l'abito fa il monaco. Certo. Quindi voi affidereste le vostre cose a cui tenete ad una persona che è vestita male o... Se rispondete sì, probabilmente siete delle eccezioni. O ti dà la mano un po' moscia, sfuggente, se rispondete sì, o non ti guarda eccezioni. In faccia. E durante il curriculum una cosa sola, essere se stessi, perché tanto poi... cade il, tutto, certo, alla fine, alla lunga le peculiarità vengono fuori poi con il assolutamente tempo, sì, questo molto rapidamente. No, ma quello che colpisce è che sono indicazioni assolutamente di buon senso, ma che invece ci sembrano magari di andare ad un colloquio con l'ansia di prestazione, dover raccontare chissà che cosa, invece bastano veramente le quattro regole di base, no Nicoletta, fondamentali. Certo. Perché stavate sorridendo? No, perché di prestazione sempre di prestazione, allora siete voi Andrea. Che ce l'avete sempre qua. Allora Davide, rimani a sentire con noi le cose interessanti che Andrea Saloni adesso suggerirà agli agenti di commercio, che hanno molto a cuore anche forma fisica e quindi salute, certo, condizioni, prestazioni. E a tutti coloro che si riconoscono nel profilo dell'agente di commercio. Voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lidom ha usato la zona lenta, il famoso Ericsson ha usato, buon per lui, la zona velocissima, mentre Bearzot per esempio ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Io sto parlando della bizona! Allora, Deborah, per questo ti dicevo, mi dai la palla o il pallone, perché comunque oggi noi non parleremo della Longobarda e nemmeno della bizona, anzi, voi ve la ricordate com'era lo schema dell'allenatore Canà impersonato dal grande Lino Banfi? 800 24 00 24, se volete, se ve lo ricordate. Tu te lo ricordi, Davide? No. Allora, bravo, perché possiamo in qualche modo invitare gli ascoltatori a raccontarcelo e a far arrivare all'ascoltatore i libri di Cuore Denari. Comunque, per gli ascoltatori che si ricordano il film, per gli appassionati di Lino Banfi, per i giocatori di calcetto e ovviamente anche per le nostre ascoltatrici che ogni lunedì sera, giorno classico del calcetto, vedono il proprio partner scendere in campo. Tutto questo, Deborah, non voglio cambiare argomento, ma ho letto un'intervista interessante a Leonardo Semplici, sì, che è l'allenatore della SPAL, la squadra di Ferrari, sì, di Ferrara, che gioca in Serie B. Bene, lui ha raccontato che se non avesse fatto l'allenatore sarebbe diventato un agente di commercio, una scelta per lui un pochino più facilitata perché il padre aveva già un'attività avviata. E questa storia mi dà lo spunto per fare due osservazioni che vorrei condividere con voi, con chi ci segue qua davanti a noi in fiera, ma anche per chi ci ascolta da casa. Infatti vorrei chiedere agli agenti che ci stanno ascoltando, ma anche a quelli seduti qua davanti a noi, perché, per quali motivi, che cosa gli ha spinto a intraprendere questa professione. Mentre agli ascoltatori da casa chiedo quale lavoro avreste fatto se non l'avesse fatto. Esatto, 800 24 00 24. Intanto che lo raccontate, Andrea, anche quest'anno torni qua ad agenti.it e quindi è una piacevole coincidenza che questa è una puntata che vale doppio, perché possiamo contare sugli agenti che ci sono venuti a trovare, ma anche sugli naturalmente con gli ascoltatori che ci seguono da casa, e quindi ci rivolgiamo ad entrambe. È una bellissima iniziativa. Come l'anno scorso avremo un sacco di cose da dire interessanti, soprattutto in funzione del tipo di attività che gli agenti di commercio svolgono nella loro quotidianità, i potenziali fattori di rischio di cui tante volte abbiamo parlato, ma calandoli sempre più nel vero e quindi nella quotidianità di chi sulla macchina ci sta, chi ha sedentarietà sui propri mezzi, chi ha poco, probabilmente pochissimo tempo per fare attività fisica regolare, che sono un po' tutti quei fattori di rischio di cui tante volte abbiamo parlato, ma trovo che calarli nella quotidianità di un individuo che ce li racconta, certo, sia ancora meglio. Abbiamo il nostro uomo. Allora, Davide, il profilo, tu che lo conosci bene, dell'agente, lo decliniamo naturalmente al maschile, poi alle agenti donne ci occuperemo in una prossima puntata, chissà. Beh, allora, gli agenti di commercio, c'è un dato statistico importante che già fa capire, come diceva appunto il dottor Salonia, fanno esattamente 6 miliardi di chilometri all'anno. 6 miliardi! Una cifra che poco, quindi, riesco a immaginarmi. Anche io, in realtà, per farvi capire, acquistano 220 auto nuove ogni giorno. Quindi, la cosa delle auto era venuta fuori anche l'anno scorso. Esattamente, ne avevamo parlato, ricordo. Però diciamo in quindi, un altro. Quindi chi fa 6 miliardi di chilometri, diciamo che fa una vita sedentaria in automobile. Poi cosa ci mettiamo? Un po' di stress. Lo stress, perché lo purtroppo stress è sempre più alto, perché le aziende, naturalmente, nel momento in cui hanno difficoltà di vendita, con chi se la prendono? Chi, certo, stressano? Gli agenti di commercio, che sono l'ultimo anello, cioè magari molto spesso non si mettono in discussione perché hanno prodotto un prodotto male. No, cioè, certo. Non è che dicono no, il mio prodotto non va bene. La colpa è di chi lo deve vendere, quando invece basterebbe ascoltare un po' di più, perché molto spesso gli agenti di commercio danno delle risposte che, se ascoltati, potrebbero aiutare l'azienda a vendere di più. Però in realtà lo stress ce l'hanno. E quindi non diciamo solo sedentario, stressato, sì, a volte un po' in carne, a volte. Non guardate. No, ma io non guardo nessuno, a volte, ma è normale. Per via dello perché stress. Perché anche lo stress è per via, esatto, della sedentarietà, bravo, perché, ecco. Ma Andrea, c'è carne e carne, c'è sì. grasso e grasso. La pancia, lo sappiamo, il grasso, l'abbiamo detto tante volte, cambia in base anche al punto in cui è localizzato. Quindi esatto. quello della pancia, tante volte abbiamo detto, la pancia non è solamente un problema estetico, ma è anche un problema di salute. Ma c'è grasso e grasso, e il colore fa la differenza. C'è un grasso bianco e c'è un grasso bruno. In diverse occasioni abbiamo coinvolto uno dei massimi esperti e studiosi, il professor Cinti, di questo tipo di grasso, di cui i ricercatori si interessano via via sempre più. Che cosa possiamo raccontare ai nostri amici che ci stanno seguendo? Guarda Nicoletta, è di pochissimi giorni fa questa notizia apparsa sui media e sui social media, perché si ritrova facilmente anche su Facebook, di un articolo pubblicato che ben discrimina il grasso bruno, che mm-hmm. è quello finalizzato alla termoregolazione di base, cioè al ben utilizzare le risorse energetiche del corpo al fine di controllare la temperatura corporea da un lato, ma si è dimostrato chiaramente come il grasso bruno, che talvolta viene prodotto da delle cellule color nocciola, che già Dai. Sono poetiche autunnali di per sé, sostanzialmente ha una capacità di proteggersi e di proteggerci rispetto al male potenzialmente fatto da quell'altro grasso, quello giallo, che noi abbiamo imparato a discriminare tra grasso viscerale, quello sì. che sta a contatto con i visceri, le budella, per essere un po' più semplicistici, e che possiamo misurare con quel famoso centimetro a livello dell'ombelico, poco più giù, che dimostra il giro vita. E abbiamo già detto in una delle nostre famose puntate, 102 quel centimetri è quel numerino magico al di sotto del quale la salute maschile viene preservata, al di sopra della quale è forse meglio mettere a ripari, il che vuol dire cominciare a fare attività fisica, ridurre il giro vita grazie a una dieta controllata e quant'altro. Il grasso bruno a quale ci riferiamo è un grasso invece completamente diverso, è un grasso che ritroviamo solo in alcune zone, ce ne sono alcuni a livello ad esempio paravertebrale, ce n'è in parte a livello dei vasi, dei grossi vasi che chiamiamo sovraortici, cioè quelli che stanno vicino al collo. Bene, questo grasso possiamo attivarlo, e oggi ci sono due modi molto facili o molto complessi, perché dipende. È meglio tenerlo, è meglio accenderlo brunetto, perché il concetto reale è quello che alla termoregolazione corrisponde un miglior controllo del metabolismo, e ancora si ritorna allo stress, al grasso, alla sedentarietà. Possiamo metterci al freddo, ed è il motivo per il quale spesso le popolazioni scandinave, che hanno temperature diverse, hanno un diverso approccio all'alimentazione e quant'altro, e possiamo utilizzare concettualmente dei nuovi farmaci che arriveranno e che attiveranno il grasso bruno. Ci sono addirittura delle osservazioni che riportano però l'attivazione del grasso bruno a quella che è la nostra dieta. Sapete perché? Ancora una volta per un buon bicchiere di vino rosso al giorno. All'interno del vino rosso sembra esserci una molecola che chiamiamo resveratrolo, molto che è una studiata. molto studiata, la molecola dell'antistress, ma lo stress non già di quello che percepiamo come psicologicamente invalidante, quanto dello stress che è associato a un dismetabolismo che tipicamente ci fa invecchiare più velocemente o che ci fa invecchiare. Lo stress ossidativo. Esattamente. Quel resveratrolo in modiche quantità è in grado di attivare apparentemente il grasso bruno. Stiamo ovviamente facendo di ogni erba un fascio, ma da un punto di vista scientifico la ricerca è volta certo. a allora, stimolare agli agenti, quindi diciamo, cari agenti, e con agli agenti naturalmente ci rivolgiamo non solamente a loro, ma a tutti coloro che facciano attività, ecco, accendete il grasso bruno. Esatto. Come lo attiva un po' il freddo, dormire magari con qualche grado in meno aiuta, potrebbe essere utile l'attività fisica, che poco abbiamo ricordato, forse benché alla palla iniziale ci facessimo riferimento. Hanno risposto in tanti allo schema di Canà. Adesso vi becchiamo. L'attività fisica è fondamentale, la partita del calcetto, quando hai pazienti che si siedono davanti alla mia scrivania chiedo fa attività fisica regolare, tutti minimizzano o ne fanno tantissima, e parleremo anche di questo eccesso di attività fisica che paradossalmente è lesivo, oppure non ne fanno. Ma tra quelli che dicono non ne fanno, sì, al massimo gioco una partita di calcetto lunedì sera, è assolutamente tipico. Un'altra delle poche attività fisica che vengono raccontate, io vado a ballare una volta alla settimana, anche quella attività fisica. Bravo, dillo è fondamentale, Andrea. Fare attività fisica quanto più aerobica possibile e quanto più regolarmente possibile. L'eccesso è potenzialmente totalmente lesivo, non solo perché è lesivo il fatto di fare un esercizio fisico molto impegnativo. Si pensa sempre che i bodybuilder, quelli che costruiscono troppi muscoli, abbiano danni. No, anche chi fa troppa attività fisica aerobica, quei super maratoneti che continuano ad esserlo anche in epoca avanzata, cioè in età avanzata. Ecco, è stato dimostrato un danno a livello cardiaco derivante da un'eccessiva ipertrofia del cuore che si trasforma spesso in fibrosi. Fibrosi vuol dire io ho un guanto Vileda, ho un guanto bello morbido, il mio guanto perde di elasticità. Quello è un cuore che è poco funzionante. Hai capito? Quindi piano, piano, un po' freddino, un po' di vino rosso, l'attività fisica giusta, attiviamo il grasso bruno, accendiamolo, è quello che fa bene non solo agli agenti, ma noi chissà, poco grasso bruno hanno i mercati. Ho un suggerimento, secondo me l'anno prossimo come gadget a questa manifestazione deve essere anche distribuito un metro per misurare il giro vita. Potremmo farlo. Ho paura che non verrà nessuno, mi vuoi non far più venire gli agenti di commercio? Allora, noi l'abbiamo detto, adesso non lo diciamo più da qui alla fine dell'anno, però poi glielo infili nella busta del gadget, esatto. Okay. Quindi... Ma tu li vuoi, guarda. Ah, che... no, non avevo... pensavo tu li volessi misurare tutti all'ingresso. No, ah, sarebbe interessante. Regali un metro. Allora si può fare. Guarda, con le faccine mie di Nicoletta sopra, sorridenti. Le regine. Le regine. Con la corona. Benissimo. Guarda che il professor Salonia organizza una bella ricerca e quindi facciamo una ricerca sugli agenti, come prevenire e come mantenere il benessere, prevenire eventuali problemi, dato che abbiamo individuato ci sono dei fattori di rischio, ma tutti ce li abbiamo, ma la sedentarietà, lo stress, una lavoriamo. Vita sempre di corsa, guarda che da cosa nasce cosa, ci sono i mercati. State zitti un attimo che adesso il microfono è tutto mio, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. E siamo insieme al saloneagenti.it in uno spazio, quello della seconda parte della trasmissione, dedicato alla salute maschile, perché è l'ultimo venerdì del mese, qua insieme a noi il professor Andrea Salonia, che è direttore scientifico anche di questo progetto, e ci stiamo occupando della salute dei nostri agenti. Davide, tu hai fatto un profilo e volevamo insistere e capire quali potevano essere le ricadute sulla salute della sedentarietà, dei tanti e tanti chilometri che gli agenti di commercio percorrono. Fedele, buongiorno da Verona. Buongiorno, approfitto del fatto che io ho venduto una macchina e sa che col tachimetro danno i tempi, la media oraria? Sì. E io ho scoperto che sugli ultimi 8 anni della mia vita, 2 anni e qualcosa, li ho trascorsi in macchina. Seduto, in macchina, cioè facendo il conto della media, del chilometro totale, levando la media che il tachimetro dà, facendo il conto dei giorni dell'anno. Pazzesco. Io negli ultimi 8 anni ho scoperto che due anni e quattro... e 4 o 5 giorni adesso da uno scarto, io ho passato seduto in macchina. Ecco, quindi ore e ore alla guida, posizioni forzate, magari anche non si può neanche fermarsi a fare una pipì stop, esatto. E con la testa naturalmente impiegata a tenere sotto controllo la strada, ma anche con il pensiero al contratto da firmare, da rinnovare, alla proposta da far accettare e quant'altro. Andrea. E questo è veramente emblematico. Pensa che quando avevamo insieme pensato a questa trasmissione, a questo piccolo angolo dedicato agli uomini nel vostro bel programma, avevamo proprio individuato in chi fosse alla guida per tante ore un potenziale utente, un potenziale buon ascoltatore. Ed è esattamente così. La salute urogenitale, la salute dei nostri organi al maschile, passa purtroppo, ahimè, attraverso anche delle posizioni non corrette. Ovviamente non si può impedire che una persona vada in auto macchina così tanto, cioè, e così a lungo. Quello è il suo lavoro e ben venga che ci sia e che ce ne sia sempre di più. Questo è inutile, sa va san dir. Però da un punto di vista medico, ahimè, non bisogna mai trascurare quella che è la salute e quanto ne risenta banalmente la nostra prostata. Quanti uomini vengono in ambulatorio e dicono io ho la prostata, meno male ce l'hai da un punto di vista anatomico, ma dall'altro è molto facile che questa prostata sia causa di disturbi. È molto facile che chi sta a lungo in macchina abbia una prostata che si infiamma e l'infiammazione prostatica porta a una congerie di sintomi che vanno dal dover andare spesso in bagno, i pipistop diventano quasi una routine, tanto da interrompere le attività se possiamo dire, chi va in macchina ha sempre di necessità la necessità di guardare che non decorrono troppe ore senza un pipistop. È sempre importante, vedi, alzarsi, che Davide muoversi. Poi sì, fuori onda sì, ci sottolineava un aspetto molto importante che fa la differenza tra chi lavora in un'azienda e che invece fa l'agente o ha una professione in cui è agente di se stesso anche. Sì. Infatti mi faceva piacere se il professore avesse qualche consiglio cioè dando per scontato che gli agenti sono costretti a stare in macchina perché se non vanno a visitare i clienti non guadagnano. Allora, dando per scontato questo, purtroppo sono costretti, al di là che cercheranno di fare magari la strada più breve per cercare ottimizzando gli appuntamenti, che si fa? Ecco, cosa possono fare per aiutare se stessi a prevenire queste eventuali patologie? Sarebbe interessante se ci si potesse fare qualcosa. Mi viene in mente una bellissima idea. Mi viene in mente una piccola trinità dei consigli. Il primo consiglio da dare ad un agente o chi passa così tante ore in automobile è bere ogni giorno un'adeguata quantità di acqua. L'acqua è veramente un toccasano, al di là del fatto di essere batteriostatico e quindi di pulire le nostre urine dalla presenza di germi, di pulire il nostro sangue, sono ovviamente banalità se vogliamo, ma questo è il primo consiglio da dare. Ecco, e alle persone che dicono io non riesco a bere, no, non mi piace l'acqua, non riesco, uno dice senti, ti bevi l'acqua, meglio l'acqua di una medicina. Piuttosto bere delle tisane, piuttosto dell'acqua che abbia un piccolo sapore, che abbia una migliore palatabilità, sì. Poi, scegliete, dire, oggi siamo ci sono addirittura, si può bere anche un po' d'acqua, no? Sì, ecco, ci sono quindi, fondamentalmente sommelier che si occupano addirittura di acque diverse, per cui c'è un mercato enorme anche dedicato alle acque. Le acque hanno palatabilità diverse, cioè hanno gusti e sapori diversi. Il secondo aspetto è non dimenticarsi mai di alzarsi ogni tot, cioè è meglio interrompere un viaggio di un'ora, benissimo, ma un viaggio che già diventi di 2 ore, interrompiamoci un'ora, lasciamo il fatto che le mani non siano sempre sul volante, pensate solo alla trasmissione delle vibrazioni sulle mani, la possibilità che le mani soffrano così a lungo è fondamentalmente molto alta, e lo dico da non esperto di ortopedia, lo dico da urologo. E il terzo ovviamente è l'ambito urologico, alzarsi, fare pipì se si riesce è sempre preferibile, evitare di mettersi alla guida con la vescica colma. Il mio maestro, il mio professore con il quale ho tanti anni lavorato, mi diceva sempre e raccontava a tutti i suoi allievi mai mettersi alla guida, mai salire in treno, mai salire in aereo con la vescica piena senza aver fatto pipì, perché il rischio è maggiore, anche voglia mai il cielo che succeda un incidente, bene, i rischi sono maggiori a vescica piena di quanto non sia vescica vuota. Quindi questi sono banali consigli, ma a mio avviso estremamente utili. Grazie. Allora, lo farò e penserete a Cuore Denari. E a proposito di strada, è arrivato anche appuntamento che non è quello del pipistop, no, ma è quello delle informazioni. Ma magari sul traffico. Qualcuno ne approfitta adesso. Dai, una pipistop. Oppure bevetevi un po' d'acqua. A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. Piccolo uomo, non mandarmi via. E riprendiamo con Mia Martini, che abbiamo scelto per individuare lo spazio della nostra rubrica Il piccolo grande uomo, una rubrica che ha l'obiettivo proprio di spingere i nostri ascoltatori a raccontarsi, a condividere esperienze che riguardano la grande variegata sfera della salute e del benessere fisico e psichico. Oggi non uno ma ben due casi che Andrea raccontiamo rapidamente e rimandiamo anche gli amici a leggere sulle pagine di Salute Uomo, l'approfondimento di Dario Ballantini, comico, pittore e attore italiano che ha voluto partecipare e quindi ci ha raccontato molto. È uno tra gli imitatori più famosi in Italia, ricorderete ad esempio le sue imitazioni di Valentino, di Michela Vittoria Brambilla e di Papa Francesco. Esatto, e a proposito, Deborah, dato che abbiamo racconteremo due lettere che sono arrivate nella nostra rubrica, oggi abbiamo anche una abbinata per gli ascoltatori che hanno risposto al nostro domandone, che è lo schema del grande... di Canà, Rodolfo Canà mi pare che si chiamasse, il famoso allenatore di calcio interpretato da Lino Banfi. E allora, per chi ci correttamente indica la tipologia di schema calcistico appunto che applicava, abbiamo super regalone. Davide, una abbinata. Una abbinata. Agenta. L'agenda degli agenti. E un libro naturalmente di Cuore Denari. 800 24 00 24, avete ancora tempo per intervenire. Intanto, Andrea, allora, due situazioni, due casi molto diversi. Iniziamo. Io inizierei dal prostata. Sì. Il primo caso di un paziente che ci ha scritto è un paziente che parte dicendoci: io non vi faccio i complimenti perché ogni volta che avete discusso delle mie problematiche, per qualche strano motivo, io non ero lì ad ascoltarvi. E questo mi ha fatto molto sorridere. Ma ci scrive soprattutto della sua vita complessa e resa ancor più complessa dal fatto che fin da bambino, no, da giovanotto, lo chiamavano il prostata, cosa che in un ragazzo molto giovane è molto complesso da dire, molto difficile, molto improbabile. Perché lo chiamavano il prostata? Perché aveva la necessità di andare ogni sempre minuto a fare la pipì. A far pipì. E racconta di questo aneddoto molto curioso del fatto che, appassionato di filmografia di Rocky e dei suoi fratelli, sostanzialmente 40 anni fa voleva, o più o meno 30 anni fa, voleva andare a vedere Rocky IV, quello in cui c'era Ivan Drago che avrebbe spezzato in due. Esattamente, e anche durante quella proiezione interrompe il tutto e deve correre a far pipì. Perché poi sempre sul più bello, tanto che ci scrive come postilla: sono poi riuscito a vederlo Ivan Drago adesso e solo in televisione. Perché all'epoca gli diedero come diagnosi, ahimè, una diagnosi non diagnosi, perché gli dissero: tu sei troppo giovane per avere la prostata. Il problema reale è che non si va a far pipì solo perché si ha una prostata ingrossata o infiammata. Una delle patologie più misconosciute si chiama sclerosi del collo vescicale. Una parolaccia per dire: avete presente la via di uscita di un imbuto? Un imbuto troppo stretto non lascia uscire adeguatamente l'acqua. Ora, in un ragazzo di quell'età, e parlava di un trentenne, è molto improbabile che i problemi della minzione, cioè il dover andare molto spesso, siano legati ad una prostata ingrossata, quanto più ad un problema anatomico che si chiama sclerosi del collo. Allora, parliamo secondo. Il secondo che mi piace molto, ma Andrea da Modena ci scriva: ma bere 2 litri di acqua fuori pasto, come sempre suggerito dai medici, tra parentesi, e in questa parentesi c'è un po' ripetita, ecco, porta ad urinare spesso. Questo può influire sulla prostata dopo una certa età? L'osservazione è più che corretta. Peraltro dobbiamo ricordare che il senso della sete, tanto più si invecchia, tanto più si scema perde. E si perde. Per cui è fondamentale sempre ricordare, soprattutto ai nostri nonni o alle persone un po' più anziane, di bere soprattutto d'estate. Detto questo, è vero che tanto più bevo, tanto più dovrò andare in bagno, perché a reni ben funzionanti corrisponderà un emuntorio per cui 150 ml ogni tot vengono ad essere prodotti. Preferisco concettualmente dire: vai in bagno una volta in più piuttosto che bevi un bicchiere di acqua in meno. Allora, abbiamo detto tante volte che la salute sessuale è spia della salute generale. Allora, con molto piacere abbiamo letto e inserito nella nostra spazio la storia del signore che, nonostante i suoi anni, rivendica un amore a tutto tondo. C'è ancora un tabù sulla sessualità degli anziani e, dato che noi vogliamo diventare tutti anziani, ci conviene piccolarlo, perché così insomma abbiamo anni garantiti. Tra l'altro, anche la ricerca si sta interessando di questo aspetto, e secondo uno studio dell'Università di Manchester bisogna superare la soglia dei 70 anni per ringalluzzirsi dal punto di vista sessuale. Il nostro signore sicuramente sta bene, ha una certa età, E nonostante questo lui dice sì, io voglio fare l'amore. Sì, ancora desiderio di fare l'amore, che non significa solo io ho desiderio di amare, di stare con una compagna e vicino a una persona che mi ami da tempo, che mi sia amica, perché sempre più spesso le persone vengono in ambulatorio e tanto più in questi ultimi due decenni, tanto più è il desiderio di avere una vita sessuale appagante, che vuol dire avere rapporti piuttosto che... È un problema, in realtà purtroppo è un problema, perché dal punto di vista culturale e sociologico si pensa che tanto più sei anziano tanto meno hai desiderio, ma è sempre più vero, quanto tu accennavi prima, l'Università di Manchester ben l'ha dimostrato, esiste una sorta di curva, di U-shape, cioè tanto più sei giovane, tanto più sei anziano, tanto più si è aggrappati alla vita, e questo rende ragione del fatto che anche la sessualità, che ne è un elemento ineliminabile, torni ad essere prepotentemente vero. Vedi, a Salute Uomo abbiamo anche sdoganato questo aspetto. Andiamo ai nostri ascoltatori, esatto, rapidamente. Chi abbiamo? Abbiamo Giuseppina da Varese, pronta a rispondere al quizzettone. Ce la deve fare in 5 secondi, Giuseppina. Proprio 5. Lo schema di Lino Banfi, di Rodolfo Canà. 5-5-5. Brava! Parte l'agenda, parte l'agenda, giustamente andando da Giuseppina. Agenda e libro. Il nostro librone. E noi torniamo, come sempre, lunedì. A Cuore Denari Regolare, in diretta dagli studi di Via Monterosa, qui ad agenti.it, e torniamo venerdì dell'anno prossimo. Sì, esatto. E nel frattempo penseremo a voi. Esatto, ci vediamo anche un po' prima di Natale per gli auguri. Certo. Molto volentieri, Andrea, grazie. Grazie a voi tutti che avete partecipato. Ce ne andiamo. Andiamo a vedere queste foto che ci hanno fatto, perché non vorrei che circolassero delle immagini compromettenti. Le regine del Crespo. Arrivederci. Buona giornata a tutti, a presto. Arrivederci.